Eva si volgeva alla porta, un po' impaziente, continuamente, aspettando di vedere entrare sua madre con Inigo Altan, ma la mamma e il fidanzato non comparivano. Erano arrivati Giovannella Sersale con sua sorella Candida Montemileto e suo cognato Francesco Montemileto. Strano a dirsi, non più la faccia di Giovannella mostrava quella mestizia profonda, quella incurabile malattia dello spirito che si manifesta in ogni fibra, nel colore, nelle linee. Invece la mostrava un volto calmo e concentrato, come tutto chiuso in un sogno, in un pensiero. Pareva quasi che con uno sforzo inaudito ella fosse giunta alla liberazione del suo spirito, a uno stato di contemplazione serena. Non più ella si accompagnava con Felicetta Filomarino, la triste fanciulla che serbava gelosamente il suo segreto, rodendosi di dolore, ma usciva sempre con sua sorella e con suo cognato, con sua sorella che le aveva tolto un marito, un fidanzato. E un misterioso sorriso le fioriva sulle labbra. Era entrata Angiolina Cantelmo con sua sorella Maria e con suo padre. Non più Angiolina, non più una donna, ma uno stelo sottile, sottile, di un biancore di rosa finissima, senza ombra di sangue sotto la pelle. Una cintura così piccola che pareva dovesse spezzarsi in due ad ogni movimento. Certe mani così scarne che il piccolissimo guanto vi faceva su 1.000 pieghe. E si vedeva in lei tutto il desiderio di apparire ancora sana e bella. Un mantello a ricche pieghe la avvolgeva per dissimulare la magrezza del corpo. Una sciarpa folta di merletto circondava il collo bianco e scarno. Una veletta bianca punteggiata di nero calava sulle guance a dar loro una vivacità fittizia. Gli occhi le brillavano e la sorrideva quando il padre, il duca, provato ripetutamente dalla sciagura domestica, aveva visto deperire la sua bella e buona figliuola per amore di colui che viaggiava lontano. Era andato dal principe Serra Capriola, padre, a implorare per la salute di sua figlia, che se ne moriva se questo matrimonio non si faceva. E il principe aveva consentito, anche per suo figlio assente, purché la dote fosse aumentata di 200.000 lire. Il suo figliuolo poteva sperare e chiedere molto di più, ma Cantelmo era un amico, un parente. Si sarebbero contentati, padre e figliuolo, di 500.000, poiché la ragazza se ne moriva. Era tornato il bel viaggiatore, indolente, freddo, scettico, per far la corte alla sua fidanzata, e la delicata creatura rigermogliava come le fragili rose bianche si schiudono in certe calde giornate d'inverno. Ella portava sulla faccia la trasformazione della felicità. Parlava poco, con una voce fievole, ma dove tremava sempre un'emozione. Entrando, ella vide subito che il suo fidanzato era nel gruppo di Giulia Capece. Il sorriso che gli mandò era parola, luce, affetto, sentimento, tutta un'anima che si involava. E subito quelle che amavano e che la intendevano, Eva Muscettola, Tecla Brancaccio, Eugenia d'Aragona, Chiarina Altan, la circondarono, guardandola con una tale tenerezza, non osando domandarle come si sentiva, parlandole sottovoce, spingendola verso il fondo del salone perché non prendesse freddo alla corrente d'aria. Un gruppo di giovanotti era entrato: Villi Galeota, Peppino Sanicandro, Carlo Mottola. Mario Capece era anche arrivato, portando un mazzo di vaniglie e di mughetti per la sposa che partiva. La conversazione parziale divenne generale. Ognuno si meravigliava che Massimo e Olga non arrivassero. Mancavano soli 20 minuti alla partenza di Roma. Eugenia si faceva giurare da Giulio che giammai sarebbero partiti da Napoli per le loro nozze e se si potevano chiudere nell'immensa e fiorita villa d'Aragona alla riviera di Chiaia, non vi era bisogno di lasciare Napoli. Ella adorava Napoli e odiava tutti gli altri paesi del mondo. Ci fu un gran movimento. Massimo e Olga erano entrati tenendosi a braccetto. Tutti li circondarono, vi fu quasi un'acclamazione di saluti. Ella era sempre più carina nel suo vestito di lana azzurro cupo, rialzato sopra una gonna di casimiro rosso, tenuta ferma da una rondinella nascosta fra le pieghe della tunica. Una rondinella pareva spiccasse il volo dal cappellino di felpa azzurro cupo. Ella era pallidissima. Massimo aveva la sua solita aria di uomo seccato e seccante. Come Olga vide tutti quelli che l'aspettavano per salutarla e le mani amiche che le si tendevano, i bei fiori che le offrivano, fra tanti affetti, tante simpatie, tanti ricordi, un tremore nervoso l'assalse. Non poteva piangere, ma gli occhi le pungevano, la gola era soffocata dai singhiozzi. E man mano ella si appartò con tutte quelle che erano state sue amiche, avendo con ognuna di loro una tenerezza, una promessa, un rimpianto, una speranza da scambiare. Massimo discorreva straccamente coi suoi amici, tenendo le mani in tasca, il cappellino abbassato sugli occhi, il contegno dell'essere perfettamente annoiato. «Ti abbiamo portato le rose, Olga», disse la prima sorella San Nicandro, guardando la sposetta con certi occhioni pieni di lacrime. «Sono un ricordo di Napoli, non ti scordare, Olga», aggiunse l'altra. Ella si chinò sulle rose, le odorò lungamente, le baciò, poi senza altro dire baciò le due bambolette sulle due guance. E le due bambolette, dopo essersi guardate come facevano sempre, nello stesso tempo allungarono il labbruccio inferiore e si misero a piangere. «Oh, care, care, non piangete!» Ella disse tremando e fece cenno a Maria Gullì Pausania che venisse a consolarle. La futura cognata si avanzò regalmente, diede un freddo bacio sulla fronte di Olga e le disse tranquillamente: «Ci vedremo a Parigi fra 6 mesi, Olga. Io ci verrò con Peppino. Tu vi sarai?» «Non so, non so», mormorò confusa Olga Down, guardando furtiva suo marito che già si accostava infastidito alla porta di uscita. E Maria Gullì Pausania si portò in un cantuccio le sue cognatine che singhiozzavano sempre. Si mise a parlar loro quietamente come una vecchia nonna che predica la saviezza e quelle l'ascoltavano levandole gli occhi in faccia come bimbe che si affidano alle promesse della nonna. «Eccoti dei giacinti, bella mia», disse Eugenia d'Aragona. «Ritorna, Olga». «Ritornerò, Eugenia». «Ritorna presto, è freddo laggiù, qui vi è il caldo, Olgarella». E si appoggiò tutta fidente, tutta innamorata al braccio di Giulio Vargas. «Ti rammenti le serate che abbiamo passate insieme, Olga?» disse sottovoce Tecla Brancaccio. «Quello che tu hai desiderato, ecco, ora lo ottieni. Sii felice, cara». «Possa tu ottenere quanto desideri, Tecla». «Oh, debbo ottenerlo o morire», soggiunse l'altra fermamente. «La prendi una commissione per Pietroburgo?» chiese Giulia Capece alla sposa. «È possibile avere una pelliccia di volpe russa? Io muoio dal desiderio di averla». «Me ne rammenterò», mormorò la sposa guardandosi attorno con gli occhi trassognati di chi non si raccapezza più. «Olga mia, la vita sempre serena, il cuore sempre innamorato», le disse piano Chiarina Altan. «Com'è possibile, Clara?» rispose sullo stesso tono con accento doloroso la sposina. Sii buona, non ci pensare», le soggiunse l'amica toccandole la fronte come per benedirla. Ma sulla porta Massimo Down, al colmo del malumore, si impazientava. L'impiegato annunziava a voce alta la partenza per Roma. Tutti si affrettavano. La sposa si avviò anche lei, seguita dal corteo delle sue amiche. Un grande vento si ingolfava sotto la tettoia. Il gas fluttuava. Massimo Down, innanzi a un compartimento riservato, buttava gli scialli e i fiori sui divani con malgarbo. Un senso di pena dominava oramai tutta la gente venuta a salutare Olga. Quella piccola, bionda, affettuosa e buona, un bel fiore cresciuto al sole napoletano che se ne andava per il mondo, che si imbarcava nel mare della vita con tanto pericolo di naufragio, commuoveva tutti quanti. Finanche Anna Doria, la vecchia zitella rabbiosa, si inteneriva guardando quel piccolo essere senza protezione, senza difesa, buttarsi nella lotta dove tante erano le probabilità di essere calpestata. «Scrivimi, Olga, scrivimi, non ti dimenticare». «Sì, sì, scriverò», diceva l'altra, parlando come in sogno, con le labbra tremanti e gli occhi che non potevano piangere. «Coraggio, Olga mia, coraggio e saldezza», le disse all'orecchio il Frida Kapnist. «Allora nulla sgomenta». «Buona fortuna, Elfrida», rispose la sposina appoggiandosi allo sportello, presa quasi da uno svenimento. A lei si accostò Angiolina Cantelmo e le due ragazze si guardarono un momento, un'occhiata così intensa e profonda che le labbra non trovarono altro da dire. Angiolina teneva strette le manine di Olga nelle sue mani magre, quasi le volesse comunicare magneticamente le dolci cose che avrebbe voluto dirle. Le mancava la voce. «La Santa Vergine!» arrivò a dire fievolissimamente. «Oh, Angiolina!» balbettò la sposina quasi interrompendola. E finalmente le lacrime le sgorgarono dagli occhi Ella pianse in silenzio. Eva Muschietto la strinse Olga fra le braccia, sentendola piangere sulla sua spalla, dicendole: «Ricordati che ti vogliamo bene, sempre, sempre, te ne vogliamo tanto, Olga mia!» La campanella suonava. «Olga! Olga!» disse la voce secca e fischiante di Massimo. «Eccomi!» rispose lei, ubbidendo. A gruppi di tre o quattro, salutandosi alla porta della stazione, tutti si mettevano in carrozza per scendere verso Napoli, ed Eva era ritornata alla sua preoccupazione. Invano Chiarina le parlava di cose allegre. «Dove sarai, Innico?» scoppiò a dire Eva. «Ma non saprei», rispose l'altra interdetta. «Oh, Chiarina, credi tu che egli mi ami? Come faccio se egli non mi ama?» Buttata nelle braccia della sua amica, singhiozzava mentre la carrozza le riconduceva a casa, e l'amica la consolava dicendole delle cose tenerissime, carezzandola come una bimba malata, ma in realtà Chiarina Altan era pensosa e triste. 4. Le carrozze signorili entravano nell'ampio chiostro di Santa Chiara, tutto pieno di sole invernale, dal portone spalancato sulla via del Gesù Nuovo. Deponevano gli invitati alla porta della chiesa, innanzi al coltrone sollevato, donde si vedeva un fulgore di ceri, poi andavano a prender posto per aspettare laggiù, in un angolo del grande piazzale deserto, presso l'altro portone sbarrato che dava sulla via della Rotonda. I curiosi si affollavano al portone spalancato cercando di scorgere qualche cosa, ma si entrava solo con un biglietto d'invito. Qualche invitato pedone arrivava vestito di nero con la cravatta bianca che si intravedeva dal soprabito. Il gibus e i guanti chiari, come per un matrimonio. Mostrava il biglietto, entrava nel chiostro, scompariva nella bocca nera della chiesa, che un'aureola di ceri pareva irradiasse nel fondo. Delle signore entravano a piedi, vestite di nero, tutte scintillanti di perline, stringendo nella mano il libro di preghiera. I curiosi credevano che si trattasse di un grande matrimonio e pazientemente nella piazza del Gesù Nuovo, sugli scalini e sotto l'androne della scuola normale, aspettavano la sposa. Nella chiesa, tutta stucchi e oro, ornata come un salone, simpatica e allegra, per mitigare la luce avevano abbassate le tendine rosse innanzi ai vetri dei finestroni, e a destra, dalla cappella dove Maria Cristina di Savoia, la buona, la santa, dorme, sino alla porta erano raccolti gli uomini. A sinistra, dalla cappellina dove la Madonna di Giotto guarda la folla coi suoi pallidi occhioni di un azzurro latteo, sino alla popolare cappella dove si venera l'Eterno Padre, il miracoloso Eterno Padre di Santa Chiara, erano raccolte le signore. Le due tribune erano circoscritte da certe balaustre di velluto rosso. All'entrata stavano riti 10 servitori di casa Muschettola immobili. Facevano gli onori il duca di Mileto, fratello del duca di Muschettola, il principe di Montescaglioso, fratello della duchessa di Muschettola. Sull'altare maggiore, inginocchiata sopra un cuscino di velluto rosso, appoggiata all'inginocchiatoio con la faccia tra le mani, la duchessa di Muschettola, vestita di nero, teneva la faccia tra le mani e pregava o piangeva o pensava. E nella chiesa di Santa Chiara, a destra, a sinistra, si affollava tutta l'aristocrazia napoletana, la bianca e la nera, la spagnola e la siciliana, la calabrese e la salernitana, quella che vive fra Napoli, Sorrento e Castellammare e quella che vive fra la Scozia, l'Inghilterra e Parigi, capitando ogni tanto a Napoli per introdurvi le mode francesi e inglesi. Oh, non facilmente l'aristocrazia napoletana si riunisce con tanta solennità in una chiesa, in un salone da ballo, in una festa pubblica. Molti uomini e molte donne che erano quella mattina nella chiesa di Santa Chiara per la casa Muschettola non erano andati, 6 mesi prima, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone per il matrimonio di Elfrida Capnist con Willy Galeota. Questo matrimonio, che aveva colmato di collera le zitelle vecchie dell'aristocrazia, scandalizzato molte sposette e meravigliato tutti quanti. Gli intransigenti continuavano a considerare Elfrida come un'avventuriera. Gli indifferenti stavano a vedere. Quel matrimonio aveva turbato tutta la società. Vi aveva introdotto un elemento di vivacità un po' boema, un po' di zingarismo ricco. Non erano tutti andati al funerale di Angiolina Cantelmo, che si era spenta quietamente in una serata di maggio accanto a una finestra del vecchio e triste palazzo Cantelmo, tenendo una manina sul capo della sorella Maria e sorridendo a Giorgio Serra Capriola. Il funerale era stato fatto senza nessun invito, nella fredda cappella dei Cantelmo, fra i parenti stretti. Il duca, presente, piangente, invecchiato di 10 anni, versando le poche lacrime di vecchio sulla poesia della sua casa che si involava. Giorgio Serra Capriola era partito di nuovo, sopra uno yacht a vapore, per il Giappone, lasciandosi dietro il ricordo della mite fidanzata, che lo aveva così unicamente amato. Neppure al funerale di Luigi Muscettola, il fratello di Eva, che si era tirato un colpo di rivoltella al cuore una notte uscendo da una bisca, la gente era intervenuta. I suicidi non potrebbero essere neppure seppelliti in terra benedetta. Si era dovuto scrivere a Roma, al Papa, per averne il permesso. Ma non vi era stata funzione, tutto era stato fatto di notte alla chetichella. Al matrimonio di Peppino San Nicandro con Maria Gullipa Usania, solo la nobiltà siciliana era intervenuta. Era stato fatto a Palermo con una pompa immensa, coi valletti vestiti alla medievale e la moschetteria al ritorno, nella loro villa castello fuori città. Tanta riunione di nobiltà si rinnovava dopo un mese, dopo i magnifici funerali di Eugenia Vargas d'Aragona, la vivace, chiassosa, simpatica creatura era morta di parto, dopo aver dato un erede ai Vargas e gli Aragona. Nulla aveva potuto salvarla. Giovane, esuberante di vitalità, ricchissima, felice, amante di suo marito. La morte le era parsa una cosa orrenda. Nel delirio gridava che non voleva morire, che la salvassero per carità quelli che l'amavano, e la si buttava al collo di Giulio stringendolo da soffocarlo. Morì disperata. Ora, la stessa gente, più numerosa forse per la novità della funzione, era venuta nella chiesa di Santa Chiara. Alle 11 in punto la novizia entrò nella chiesa, l'attraversò in tutta la sua lunghezza per recarsi all'altare maggiore. Ella era vestita di un lunghissimo abito di broccato bianco, sui riccioli castani un velo bianco amplissimo che la avvolgeva tutta. Grossi orecchini di brillanti scintillavano alle orecchie delicate, un ricco fermaglio al collo, una fibbia alla cintura. Le mani guantate di bianco portavano un mazzolino di fiori d'arancio e un libro di preghiere legato in velluto bianco. Ella era tutta candida, da capo a piedi, candido il bel volto giovanile. Teneva abbassati gli occhi, quasi chiusi, ma senza serenità. Una pace suprema era dipinta su quella faccia. Pace, non serenità. Non sorrideva, per cui non era serena. Le labbra pareva avessero respinto indietro il sorriso, ma sempre formavano una linea composta che nulla poteva arcuare più nel gaio riso della gioventù. Così, il basso del volto, che tutti avevano sempre visto commosso lietamente, dava a tutta la faccia come un subitaneo invecchiamento. Pareva un'altra con la morte del sorriso. Eva Muscettola, la novizia, si era trasformata. Un mormorio nacque sul suo passaggio. Qualche voce femminile disse dolcemente, dolorosamente: «Eva, Eva, Eva!» Ma ella non si volse neppure. Continuò la sua strada come se nulla potesse interessarla. Dietro di lei venivano le due madrine, la principessa di Tricarico, la gran dama mistica e pietosa, un portamento regale, un viso impallidito dalle tribolazioni e dalle preghiere, e la duchessa della Mercede, una spagnuola magra, alta, dalle labbra sottili, dagli occhi di carbonella, diritta e fiera. Quando fu sull'altare maggiore, Eva si inchinò, fece il segno della croce, si accostò a sua madre, ma non l'abbracciò, le baciò la mano. La duchessa aveva teso la faccia, ma si rigettò indietro come pentita. La novizia si inginocchiò fra le due madrine. Il cardinale Riario Sforza, lo stesso che obbligava a rimaner monaca Enrichetta Caracciolo, cominciò la messa lentamente, muovendo a stento la persona che l'età e l'ascetismo avevano mal ridotta. Gli uomini ritti avevano l'aria inebetita di coloro che sentono la solennità di una funzione e non osano abbandonarsi a quell'emozione. Solo qualche vecchio, il duca d'Aragona, il duca Cantelmo, il duca di Isernia, colpiti da poco da sventura, osavano chinare la testa. Essi, a cui la fede era rientrata in core con la sciagura. Invece, d'altra parte, le signore pregavano, inginocchiate, abbandonandosi in quell'ora mistica ai loro sentimenti, afferrando avidamente quell'ora di raccoglimento. Tecla Brancaccio, la forte e dura volontà, l'animo coraggioso, guardava Eva Muscettola, chinava la testa e pregava. Ella, ostinata, ferrea, nella lotta con Maria di Miradua, aveva vinto. La spagnola era ripartita per Barcellona. Carlo Mottola si era deciso a sposare Tecla di malavoglia, bruciando ancora della vecchia passione. Tecla aveva vinto penosamente, dolorosamente, ma Eva, sull'altare maggiore, vestita di bianco come una sposa, tenendo in una mano una candela accesa, nell'altra una croce d'argento, avendo abbandonato i fiori e il libro di preghiera, Eva, la bella e la buona, aveva perduto, era stata vinta. E Tecla, umilmente ignorando il grande segreto di Eva, ma intuendo nello spasimo, pregava, pregava, pregava, per i vinti come per i vincitori, per Donna Maria di Miradua come per sé, per la povera Eva come per coloro, gli ignoti, che l'avevano contristata irrimediabilmente. Anna Doria, buttata coi gomiti sopra una sedia, con la testa fra le mani, presa da una crisi nervosa di malinconia, pregava stringendosi alle labbra il rosario. Quella rinunzia di Eva alla vita, quel distacco da tutte le cose umane, persone e sentimenti, quella morte volontaria del cuore cristiano che aborre il suicidio, aborre il mondo e solo a Dio si volge, le parevano la fine della propria vita. Le pareva che ella stessa, Anna Doria, a 35 anni, senza bellezza, senza speranza, senza affetti, senza avvenire, non avesse altro scampo che andarsi a chiudere in un monastero. Col capo abbassato, in un assorbimento doloroso, Giovannella Sersale non aveva il coraggio di pregare. La sua anima era immersa nel peccato, ella amava il peccato, ella non aveva il coraggio di salvarsi dal peccato, ella era indegna di pregare, indegna di inginocchiarsi innanzi a Dio. Giammai la misericordia divina poteva perdonarle. Oh Eva, Eva lassù che aveva appoggiato il crocifisso d'argento al petto, era scampata dalla tempesta, era in salvo, aveva rinunziato, ma lei, Giovannella, non poteva, no, doveva perdersi, doveva morire nel peccato. Accanto a Maria Gullissa Annicandro, che pregava decorosamente per colei che fuggiva le vane pompe e anziché dare spettacolo del suo dolore si nascondeva per sempre in una clausura, Giulia Capece pregava, ringraziando il Signore che le aveva fatto la grazia. Fra 2 mesi ella partiva per l'Inghilterra e la sposava un vecchio principe. Napoli era ormai troppo lugubre, le ragazze vi morivano, o vi si facevano monache, le spose morivano o fuggivano come Maria di Miradua, le avventuriere sposavano i principi. Giulia pregava quietamente, senza turbarsi, presa solo da una pietà per la bellezza di Eva che andava a consumarsi in convento. Le due piccole San Nicandro, tanto carine, sotto i cappellini neri, erano inginocchiate d'accanto, strette strette, e dicevano il rosario insieme. La più grande cominciava sottovoce, la seconda rispondeva, continuando, e pregavano fervidamente, un grande desiderio di salvarsi l'anima, di farsi monache ambedue. Veniva loro, avrebbero voluto diventare due santarelle, le due santarelle di casa San Nicandro. E Felicetta Filomarino, la fanciulla senza speranza e senza gioia, quella di cui tutti ignoravano il cuore, anziché perire nel peccato spirituale come Giovannella Sersale, cercava al Signore la vocazione di Eva. Tutte le donne pregavano, commosse dal fatto e dal rito, dando sfogo ai loro dolori nella contemplazione della candida creatura ventenne che se ne andava a morire in convento. Pregava fin anche Elfrida Galeota, la zingarella divenuta contessa. Pregava rammentandosi le orazioni infantili che la vita randagia e gli stenti le avevano fatto dimenticare, pregava col cuore umiliato nella vittoria per colei che era stata sempre buona con lei, per Eva, che scompariva volontariamente dalla scena. E quella che più si inabissava nella preghiera era Chiarina Altan, la creatura buona e intelligente. Ella sola conosceva l'orrendo segreto che aveva distrutto la vita di Eva Muscettola. Ella sola aveva la misura di quel sacrificio. Ella compiangeva la fanciulla, ma pregava per coloro che l'avevano uccisa, per coloro che mai più avrebbero avuto pace. Il pontificale finiva. Il cardinale seduto benediceva l'abito di monaca francescana che Eva doveva indossare, disteso in un vassoio d'argento. Poi, inchinatasi all'altare profondamente, senza vacillare, senza levare gli occhi, senza vedere nessuno, Eva, seguita dalle due madrine, riattraversò la chiesa. Uscì dalla porta nel chiostro, si avviò alla porteria del monastero, dove le altre monache l'aspettavano. Dietro venivano i preti, salmodiando. Di nuovo certe mani amiche si stesero, quasi per toccare il vestito di nozze di Eva. Qualche voce la chiamò, ma ella non udì, come la prima volta. La madre era rimasta sull'altare maggiore, tutti la guardavano per distinguere se piangesse. Perdere un figlio dopo l'altro a 8 mesi di distanza, veder finita la propria casa. Un giovanotto morto con un colpo di rivoltella, una ragazza che si faceva monaca, doveva essere uno schianto insopportabile per un cuore di madre. Ma la duchessa non levava il capo, restava solitaria sull'altare. Il duca viaggiava all'estero, non aveva voluto assistere alla monacazione della sua figliuola. La famiglia era distrutta, da cima a fondo, i Muscettola scomparivano, l'eredità passava ai Mileto. Eva aveva disposto della sua dote per l'ospizio dei poveri fanciulletti abbandonati. Un intervallo di silenzio si allungava nella chiesa. Il sole aveva raggiunto il piccolo portico, quasi quasi penetrava dalla porta. Tre finestroni si riscaldavano vividamente, mandando una luce rossastra sui marmi bianchi, gli stucchi sulle dorature della bella chiesa. A un tratto, accanto all'altar maggiore, una porticina si aprì, quella che comunicava col convento. Innanzi ad essa vi era Eva. Le avevano levato il vestito bianco, il velo, i fiori, i gioielli, le scarpette di raso, tutto l'apparato mondano. La bruna tonaca delle monache francescane le scendeva ai piedi, dal collo in pieghe grosse, strette alla vita dal cordone bianco. I piedi non si vedevano, le mani avevano il biancore giallastro della cera, i bei capelli biondo castani le scendevano sulle spalle disciolti. A vederla in quell'abito ruvido, Giulia Capece sentì un grande schianto al cuore, si mise a piangere silenziosamente. Il cardinale officiante, che era entrato nel monastero con Eva, si staccò dal fianco della badessa, si avanzò verso la monacanda, benedì il bianco scapolare ed Eva lo passò al collo, macchinalmente, non guardando in volto nessuno. Conservava sempre la stessa fisionomia pacata, che nessun'altra espressione veniva a turbare, né di dolore né di gioia. Questa immobilità di quel volto che tutte avevano sempre visto vivacissimo feriva la fantasia più di qualunque espressione dolorosa. Infine Eva si inginocchiò accanto alla porticina e chinò il collo. Una monaca si staccò dalle altre e le si avvicinò, raccogliendole i capelli tutti in un fascio e stringendoli nel pugno. La badessa, una vecchietta curva con una grande croce gemmata che le batteva sullo scapolare, appoggiandosi a una mazzettina, si avanzò lentamente verso Eva. Dalla chiesa tutte tendevano il collo, si rizzavano in punta di piedi per vedere che accadesse nel vano della porticina. La novizia inginocchiata pregava, si vedeva il moto delle labbra. La vecchia badessa impugnò un paio di lunghe forbici, dalla lama lucentissima. Le passò sotto il fascio dei capelli che la monaca teneva stretto e sollevato. Sentendosi il freddo dell'acciaio sul collo, la novizia trasalì per un lungo brivido, forse di terrore. Le donne che guardavano senza più pregare, ansiose, frementi, provavano tutte lo stesso brivido. Le forbici incerte nelle mani tremanti della vecchia badessa stridevano senza tagliare. Non mordevano i capelli, si arrovesciavano. L'operazione pareva non dovesse finir mai. Quei 5 minuti parvero un'eternità straziante. Il fascio dei capelli tagliati rimase nella mano della monaca, molle come una cosa morta. Qualche viso di donna nella chiesa si gettò indietro, pallidissimo, come se gli mancasse la vita. Elfrida Capnist, contessa galeota, abbassata la testa dai bruni capelli ricciuti e ribelli, la testa di boema libera e audace, piangeva sulla chioma recisa di Eva. Alla novizia, sul capo disadorno a un tratto diminuito, diventato piccolino, come di certe persone morte, avevano buttato un velo nero. La funzione non finiva ancora. La novizia Muscettola, per sommo favore della Santa Sede, aveva ottenuto che le fosse risparmiato l'anno del noviziato. La vocazione sua era così profonda, così irresistibile, che desiderava pronunziare il voto nel giorno in cui prendeva il velo. Invano lo stesso suo confessore le aveva consigliato a desistere da quest'idea, a far l'anno di noviziato. Forse poteva pentirsi della sua decisione e sarebbe stata sempre in tempo. Ella si era mostrata così decisa, così irremovibile, che si era dovuto ricorrere per forza a Roma. E Roma aveva consentito. Oramai monache non se ne facevano più. Una così ardente vocazione sarebbe servita di esempio. Dunque la novizia si era levata su in mezzo al coro, innanzi alla porticina. Quattro monache con le candele accese erano venute a circondarla. Le avevano dato una lunga pergamena scritta in latino. Ella la leggeva lentamente, lentamente, ma senza nessun tremito nella voce, senza emozione, una voce che aveva già la monotonia delle voci monacali. Era la lunga formula del giuramento claustrale che ella pronunziava al lume delle quattro torce. Le parole latine, gravi, sgomentavano l'anima di tutte quelle donne oranti. Gli uomini stessi non si potevano togliere da quell'emozione. Un silenzio profondo regnava in quella grande chiesa. Alla fine Eva si fermò e in italiano disse quattro voti, castità, povertà, obbedienza e perpetua clausura. Tese la mano, giurò con voce tranquilla, prese la penna che le porgevano, firmò la pergamena. Dopo di lei firmarono la badessa e il cardinale Riario Sforza. Irrefrenabilmente Anna Doria piangeva con un piccolo singhiozzo secco e rauco. Poi la funzione divenne più lugubre ancora. In mezzo al coro, per terra, era disteso un tappeto. Le monache vi condussero Eva, la fecero distendere supina, come persona morta, le incrociarono le mani sul petto, la coprirono con una coltre di velluto nero gallonata d'argento su cui era il cranio e le ossa in croce, le insegne della morte. Attorno ai quattro lati, come attorno al cadavere, ardevano quattro grossi ceri e subito la campana di Santa Chiara si mise a suonare a morto. Le monache salmodiavano il De Profundis, le due San Nicandro spaventate piangevano, strette l'una all'altra, pensando che realmente Eva fosse morta. Maria Gullì San Nicandro si sentiva bagnare gli occhi di lacrime a quei funerali di persona viva. Eva, nascosta sotto la coltre, rigida come un cadavere, fu incensata, benedetta con l'acqua santa. Le monache con la croce giravano in processione intorno a lei. Oh, come avrebbero voluto! Come avrebbe voluto essere morta Giovannella Sersale, che non trovava più lacrime. Nell'ardore della sua passione, morta, morta nel sonno profondo, donde mai più viene a svegliarci lo strazio. Morta, morta nel gran riposo, dove non si pensa più, non si ama più, non si soffre più. Come avrebbe voluto essere lei la monaca Felicetta Filomarino, l'anima mistica, che era risalita dall'amore della creatura sino all'adorazione per il creatore, che sentiva sempre più librarsi il suo spirito dai legami della terra. Le preghiere dei morti continuavano, profondamente penose, mentre il sole riscaldava oramai tutti i finestroni velati di rosso. La campana da morto risuonava sempre e i curiosi che si accalcavano sulla via domandavano se quello era un matrimonio o un funerale. Il cardinale si avanzò verso Eva e le disse in latino: «Surge, que dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus». Tre volte l'evocazione fu ripetuta. Le monache sollevarono la coltre mortuaria. Eva si levò ginocchioni sul tappeto, poi sorse in piedi. Il cardinale la benedisse e scomparve dal coro. Le monache la baciarono una alla volta. La porticina fu richiusa, mentre la monaca con le altre orava: «Ego sum resurrectio et vita». Tutte le donne, reclinato il capo, piangevano su quella monaca.